giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Evacuato alle 4 del mattino parte di uno stabile di Trieste, il fuoco è partito dalla cucina dell'attrice Ariella Reggio, rimasta solo lievemente intossicata. La nostra intervista. Un'azienda friulana che opera nel settore dei trasporti internazionali versa all'erario 5 milioni di euro tra evasione fiscale, costi indebitamente dedotti e ricavi non dichiarati. L'inchiesta della Finanza. In un recente report dell'Istat che mette le regioni a confronto, in Friuli Venezia Giulia dati positivi per trasporto pubblico, ambiente e sicurezza, sotto la media la fiducia nelle istituzioni. A Corno di Rosazzo un convegno sui contratti di fiume, un modello per la gestione sostenibile delle risorse idriche, focus particolare sul ruolo delle donne. L'Iran e la crisi del Medio Oriente al centro di un incontro al Circolo della Stampa di Trieste, tra i protagonisti l'analista di politica internazionale Roberto Iannuzzi, la nostra intervista. Il basket, tornano in campo le squadre regionali di A2, l'APU Udine ospita Forlì in casa, la Web Cividale gioca in trasferta a Piacenza contro l'Assi Geco. Tre giornate di squalifica a testa, questa la decisione del giudice sportivo in merito all'episodio tutto interno alla triestina Crolis Clotet. Le 18.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Andrei Marussic. Come avete sentito dai titoli, l'attrice triestina Ariella Reggio è stata assistita dai sanitari per un principio di intossicazione dovuto all'incendio divampato nella notte nella sua cucina. Incendio che ha portato all'evacuazione di una parte dello stabile nel quale risiede la donna, vicino al giardino pubblico in via Marconi 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e alcune ambulanze, ma solo l'attrice è rimasta lievemente intossicata senza però avere bisogno di essere trasportata in pronto soccorso. Le persone evacuate, una ventina, sono rientrate poco dopo nelle loro abitazioni. Pare che l'incendio sia stato provocato da un cortocircuito all'interno, come detto, della cucina dell'attrice. Ma sentiamo l'intervista ad Ariella Reggio. Quindi com'è andata? È andata uno shock terribile. Mi piace di più essere famosa per altro che per questo. Volevo cominciare con i ringraziamenti, perché ho dei vicini meravigliosi. E poi le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, due carabinieri, l'ambulanza. Subito mi hanno soccorsa con una grande gentilezza, grazie davvero. E poi devo fare una piccola protesta. So da un'amica che per radio questa mattina hanno detto che in via Marconi, dove abito io, una signora anziana è stata protagonista di un incidente. Beh, non sono certo io, Sapete che butto tutto in ridere, perché l'umorismo ci salva. Comunque, ho capito una cosa, le cose sono importanti, ma le persone di più. Quindi cosa dirà la De Begnac di questa vicenda? No, adesso non tiriamo fuori la De Begnac. Alla De Begnac telefonerò un altro momento, non è questo il momento giusto. Grazie. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La Procura di Gorizia ha disposto il sequestro a fini probatori di un cantiere stradale del capoluogo isontino in via Fatebene Fratelli. Il cantiere, allestito dall'ente che si occupa della rete di distribuzione del gas in città, prevede la sostituzione delle condotte. A seguito delle indagini del Carabinieri del NOE, il Nucleo Operativo Ecologico, si è scoperto che le condotte in cemento amianto non venivano rimosse e smaltite come prevede la normativa sulla gestione dei rifiuti. Il pezzo di condotta veniva dismesso ma lasciato sul posto e sarebbe rimasto sottoterra. Un fascicolo è stato aperto a carico di ignoti per le ipotesi di reato di mancato smaltimento di rifiuti speciali. Le 12.35, uno sguardo al meteo, il tempo, cielo sereno sulla regione, variabile sul Tarvisiano, le temperature registrate alle 11, Trieste 9 gradi, Udine e Gorizia 10, Pordenone 9 gradi e 5 decimi. Forni di Sopra 9 gradi, Tolmezzo 8, Piancavallo 7 gradi, Sappada 3 gradi e 5 decimi, Tarvisio meno 1 grado, Monte Zoncolan 3 gradi e 5 decimi, Monte Lussari 5 decimi di grado, grado 10, Lignano 8 gradi e 5 decimi. Le previsioni. Questo pomeriggio avremo nuvolosità in aumento a partire dalla zona montana. Sul Tarvisiano saranno possibili nubi basse o nebbie. Soffierà bora moderata sulla costa e sulle zone orientali. In serata anche sostenuta a Trieste. Domani nella notte fino al mattino cielo da variabile a nuvoloso, poi cielo in genere poco nuvoloso. Nella notte al mattino saranno probabili Nubi basse o nebbie sul Tarvisiano. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, fino al mattino anche sostenuta a Trieste. Possibili gelate notturne sulla pianura e sui fondovalle. È arrivato il servizio che aspettavamo da Udine sull'azienda friulana che è stata, a cui sono state contestate una serie di violazioni e che ha dovuto versare all'erario circa 5 milioni di euro. Vediamo, sentiamo il servizio. Evasione dell'IVA per 4.300.000 euro, costi indebitamente dedotti per circa 2 milioni di euro e ricavi non dichiarati per circa 1 milione di euro. Ha dovuto sanare la sua posizione con l'erario un'azienda di autotrasporti a nord di Udine, finita in un'indagine della Procura friulana e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Udine. Dichiarava di operare sotto contratto per una società multinazionale olandese, spedizioni internazionali quindi, quando in realtà lavorava nell'interesse di una ditta del Comasco, appartenente allo stesso gruppo estero. Le merci, in pratica, non hanno mai valicato il confine. Tenente colonnello Francesco Auriemma, comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Udine. Erano operazioni Italia su Italia, in quanto i mezzi partivano da Udine, andavano a Como e da Como poi, provincia di Como, andavano insomma in tutta Italia e quindi in quanto tali erano operazioni da soggettare all'aliquota prevista ai fini IVA. Le verifiche fiscali dei finanzieri udinesi, basate su un'analisi dei rischi del settore trasporti internazionali, sono sfociate nella denuncia per il reato di infedele dichiarazione, punito dalla normativa sui reati tributari. La bravura è stata la possibilità di poter acquisire la documentazione informatica della società verificata, quindi parliamo di mail e di documenti che risultavano essere presenti sui server e connessi comunque ed esclusivamente all'attività di carattere commerciale. Definito il contenzioso tributario, la società indagata ha versato all'Agenzia delle Entrate, la cui direzione ha collaborato alle indagini, circa 5 milioni di euro. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. In un recente rapporto l'Istat fotografa le differenze tra regione e regione in fatto di benessere ed ecosostenibilità. Vediamo cosa emerge sul Friuli Venezia Giulia. La soddisfazione per i servizi di trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia è l'elemento che spicca nel confronto tra regioni rispetto agli indicatori di benessere equo e solidale dell'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. Il 43% degli utenti del trasporto pubblico locale è soddisfatto in regione contro una media del 23% a livello nazionale. Solo l'Alto Adige fa meglio. C'è una buona soddisfazione inoltre per la situazione dell'ambiente nella zona in cui si vive. Al contempo i cittadini del Friuli Venezia Giulia, rileva l'Istat, sono tra i meno preoccupati d'Italia per gli effetti dei cambiamenti climatici. Dati positivi anche sulla questione sicurezza. L'unico neo è il numero di furti in abitazione superiore alla media nazionale. Per il resto borseggi, rapine e omicidi volontari sono sotto la media italiana. Anche la percezione di sicurezza è migliore rispetto al resto del paese. Oltre 7 cittadini su 10 si sentono sicuri a camminare da soli quando è buio. Sostanzialmente positivi anche i dati sul benessere economico e sul lavoro. Venendo agli aspetti più negativi, emerge una certa sfiducia nei confronti delle istituzioni, a partire dal sistema giudiziario, nonostante la velocità dei procedimenti civili. Sotto media anche la fiducia nella politica, mentre è più alta quella nei confronti di forze dell'ordine e vigili del fuoco. Bene gli indici di salute della popolazione al netto del problema dell'alcol. Il 20% di chi vive in Friuli Venezia Giulia presenta comportamenti a rischio nel consumo di alcolici, 5 punti in più della media nazionale. Solo Valle d'Aosta e Alto Adige fanno peggio. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono soprattutto i giovani di età compresa fra i 13 e i 18 anni ad avere più degli adulti una particolare propensione a ragionare in termini di sostenibilità ambientale ed è proprio a loro che l'ARPA, in occasione del suo 25° anniversario, ha dedicato una settimana di approfondimento. Gli effetti negativi del cambiamento climatico ci stanno ammonendo che la condizione del nostro ambiente non può più essere sottovalutata, una consapevolezza che va coltivata sin da bambini, partendo dalle scuole. Il laboratorio di educazione ambientale dell'ARPA sta lavorando intensamente per creare una rete tra scuole, enti pubblici, associazioni, parchi e musei per proporre in modo coordinato su tutto il territorio regionale percorsi di educazione ambientale. Siamo partiti con due eventi dedicati agli studenti universitari, la Facoltà di Scienze della Formazione a Udine, dove abbiamo parlato di educazione ambientale proprio con i futuri insegnanti, E poi proprio ieri sera è partita una rassegna cinema a Gorizia, organizzata con l'Associazione Studentesca di Scienze Internazionali Diplomatiche. È una rassegna organizzata e voluta dai ragazzi, e seguiranno poi altri eventi, in particolare nelle giornate di venerdì e sabato, dedicate a famiglie e pubblico, e poi un convegno regionale proprio dedicato all'educazione ambientale e al mondo della scuola. Nel frattempo è già partito il concorso Solo Insieme. Spesso ci buttiamo un po' giù quando diciamo il nostro impegno come singolo cittadino non serve, e guardiamo magari a quello che fanno, quanto inquina una grande fabbrica o quanto inquina il traffico, e magari non crediamo all'impegno di ognuno di noi. E il concorso vuole proprio lavorare su questo, con tutte le fasce d'età. Ricordiamo che ci sono 90 laboratori gratuiti che vengono realizzati da Matra. Secondo uno studio, i giovani di età compresa tra i 13 e i 18 anni dimostrano, più degli adulti, una particolare propensione a ragionare in termini di sostenibilità, e l'esperienza degli operatori di Larea lo conferma. Io vengo dall'esperienza di ieri sera, un'esperienza bellissima, dove dei giovani universitari, quindi parliamo di giovani sui 20 anni, hanno organizzato da soli una rassegna con il nostro sostegno, ma sono loro che hanno selezionato film, che vogliono continuare a ragionare su questi punti. E quando me lo dicono loro, mi fido che è una cosa a quale tengono. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Corno di Rosazzo è in corso un convegno sui contratti di fiume, un modello per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Un evento dedicato anche al ruolo delle donne nella gestione delle acque, con testimonianze di ricercatrici e esperte del settore. L'acqua, bene comune, i contratti di fiume, accordi fra istituzioni e associazioni del territorio per la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche e infine le donne, ruolo da valorizzare all'interno dei contratti di fiume. A Corno di Rosazzo si è scelto di legare i temi portando le testimonianze delle donne friulane che si sono distinte nella tutela delle risorse ambientali. In Friuli Venezia Giulia sono 7 i contratti di fiume e coinvolgono 68 comuni, il 30% del territorio regionale. Francesco Visentin, Università di Udine. L'Alto Livenza, il Noncello, il Cormor, il contratto di Rio del Roiello di Pradamano, il contratto dello Iudrio, del Natisone e della Laguna di Marano. Inoltre si stanno avviando diversi altri contratti sull'Edra, sull'Esia, abbiamo poi la Foce dell'Isonzo e il contratto del Torre, più il Corno. Quindi abbiamo altri contratti che stanno partendo. Una forma di politica partecipata dove si punta a valorizzare la presenza femminile in ruoli apicali per la diffusione di buone pratiche anche nel resto del territorio nazionale. Paola Rizzuto, coordinatrice nazionale del progetto Le Donne dell'Acqua. Uno degli obiettivi importanti è la valorizzazione dei luoghi dell'acqua, tratti di fiume che sono stati contraddistinti proprio da donne, e quindi anche la valorizzazione dei luoghi, parlare delle donne di un tempo, cosa sono diventate oggi. Immaginiamo gli antichi lavatoi, le lavandaie, piuttosto che le mondine, piuttosto di donne che hanno lavorato sulle anse dei fiumi, lavoravano la ginestra, la canapa, quindi è lì le prime forme di partecipazione e di aggregazione. Quindi da lì oggi quelle donne sono diventate altro, sono donne che gestiscono anche l'acqua in una dimensione diversa, più complessa, più matura, più consapevole, ma ancora la strada è tanta da fare. Corno di Rosazzo, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un significativo contributo italiano alla ricerca astrofisica internazionale, quello che rappresenta il progetto Ken-Renkov Telescope Array Plus, a cui partecipa CIMOLAI. Il progetto, da 23 milioni di euro, è un'iniziativa di punta nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. L'Iran e la crisi del Medio Oriente è il titolo dell'incontro che si terrà alle 17.30 al Circolo della Stampa di Trieste. L'analisi, organizzata da Dialoghi Europei, vedrà la partecipazione di Roberto Iannuzzi e Federico Donelli, che discuteranno delle ripercussioni regionali a partire dalla risposta di Israele all'attacco di Hamas e delle possibili evoluzioni politiche anche in relazione all'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti. Roberto Iannuzzi, analista politico internazionale, avverte che l'escalation tra Iran e Israele potrebbe degenerare. C'è il rischio di un'escalation, perché questa è la prima volta che i due paesi si scambiano attacchi diretti fondamentalmente, c'è il rischio di un'escalation che possa coinvolgere gli Stati Uniti e portare a una deflagrazione regionale, tenuto conto della situazione che c'è in questo momento in Medio Oriente. La domanda che ci facciamo un po' tutti dopo il risultato delle elezioni americane è: il ritorno di Trump come inciderà su questi equilibri? Il rischio è che incida negativamente, perché nel primo mandato Trump ebbe una politica molto dura nei confronti dell'Iran, fu lui a uscire unilateralmente dall'accordo nucleare che l'Iran stava rispettando e a imporre questa politica della massima pressione, no? Quindi di sanzioni durissime contro l'Iran. I rapporti storici, diciamo, fra Trump e l'Iran sono cattivi, diciamo così, mentre c'è una convergenza molto stretta tra Trump e Netanyahu, quindi il rischio è una ulteriore polarizzazione di questo conflitto. Invece il governo israeliano di Netanyahu è destinato a rimanere stabile fino alle elezioni del 2026? In questo momento Netanyahu ha rafforzato il proprio governo, ha i numeri quindi per andare avanti teoricamente fino alle prossime elezioni. C'è però una crescente crisi interna all'interno di Israele, anche a livello un po' sociale, a livello degli apparati dello Stato, quindi la situazione anche all'interno di Israele è molto fluida. Se teoricamente il governo Netanyahu è forte, le condizioni all'interno del paese potrebbero indebolirlo. Previdenza e pensione, il titolo del convegno organizzato da Federmanager in collaborazione con quattro manager e altre associazioni territoriali, incomincia alle 17 nel circolo aziendale Fincantieri Varsila di Trieste. L'incontro si concentrerà sugli investimenti pensionistici con approfondimenti su temi come il riscatto della laurea, il massimale contributivo e le opzioni pensionistiche disponibili. Interverranno esperti del settore, tra cui Mario Cardoni di Federmanager e Francesco Fidanza di Allianz. Ripartono oggi a Trieste gli incontri gratuiti di orticoltura e arboricoltura promossi da Urbi e Torti con Legambiente e Bioest. Prima lezione questo pomeriggio alle 17.30 in via Modiano 5 con un focus dell'agronomo Paolo Parmegiani sui piccoli uliveti. L'iniziativa mira a diffondere pratiche di agricoltura urbana promuovendo coesione sociale e tutela del verde pubblico. Previsti anche moduli primaverili e lezioni pratiche. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato. L'organizzatrice Tiziana Cimolino ci ha spiegato la scelta del tema di questo nuovo ciclo autunnale e ci ha fornito alcuni numeri sull'iniziativa. A grande richiesta siamo partiti quest'anno in autunno proprio per parlare di olivo e alberi da frutta, perché c'è stata una grande richiesta. Quanti sono gli orti urbani? Gli orti urbani, iniziata questa esperienza dal 2011, ormai ne abbiamo aperti più di 40, ma il discorso orto urbano è un orto di comunità. Noi siamo partiti dall'idea: hai braccia e vuoi un orto, hai un orto e non riesci a prendertene cura e vorresti che qualcuno lo facesse per te. Quindi un'adozione, non facciamo compre vendite o affittanza, un'adozione di uno spazio. Quindi qualcuno ce l'ha e abbiamo bisogno di curarlo. Adesso, per quanto abbiamo i nostri cosiddetti nuovi contadini, siamo più o meno sui 400, considerando che ogni orto più o meno ne ha da 5 a 10 e sono degli spazi più grandi suddivisi in più persone. Qual è la superficie che coprono questi orti? Ma allora, noi diciamo che una persona, per iniziare, che cominci pure con 30-40 metri quadri, perché bisogna mettersi un attimino in gioco e vedere quello che si sa fare. E che fine fa poi il raccolto? Qualora uno decide per esempio di mangiarselo, se lo mangia poi può scambiarlo, laddove magari si è professionalmente è diventato più bravo in un tipo di prodotto. D'altro canto però, quando noi abbiamo appunto una persona che ci dà il suo orto gratuito, noi una parte la doniamo sempre a colui che ospita l'orto. Abbiamo tanti posti, c'è ancora posto per tutti. Il padiglione M del Parco Culturale di San Giovanni a Trieste ospita un omaggio a Pier Mario Ciani, artista, fotografo e grafico friulano scomparso nel 2006, che fece parte del gruppo 78 animato dalla critica Maria Campitelli. L'evento è così anche un omaggio alla stessa Campitelli, recentemente scomparsa, ed è stato realizzato attraverso la partecipazione di oltre 30 artisti. Nella mostra, gli autori che hanno risposto alla chiamata sono amici e compagni di viaggio che hanno collaborato con Ciani. Accanto ai loro lavori, in mostra sono esposti materiali d'archivio del gruppo 78 che ricordano la collaborazione con Ciani e i pezzi della collezione personale di Campitelli. La mostra si inaugura oggi, nell'occasione la critica d'arte Francesca Agostinelli, che con Ciani ha condiviso idee e progetti, accompagnerà il pubblico alla scoperta dei suoi multiformi linguaggi e del suo vastissimo e poliedrico mondo. L'appuntamento è alle 16.30. Prende il via oggi la 25esima edizione della rassegna Spaesati, un evento culturale che esplora le tematiche legate all'immigrazione, alla multiculturalità e ai cambiamenti sociali. Alle 18.30 apre la rassegna l'incontro dal titolo La stoffa delle relazioni. La giornalista Fabiana Martini dialogherà con Maria Rosaria Amari, volontaria della comunità di Sant'Egidio e coordinatrice del progetto, e poi con Ilaria Margherita, vicepresidente della cooperativa sociale agricola Monte San Pantaleone. Seguirà alle 20.30 lo spettacolo teatrale L'estranea di casa con Raffaella Giancipoli, la storia di un'insegnante rumena che diventa badante di un'anziana signora. Il basket, tornano in campo le squadre regionali di A2, l'APU Udine ospita Forlì in casa, la Web Cividale gioca in trasferta a Piacenza. Quarto turno infrasettimanale all'undicesima giornata e il secondo consecutivo. Per tecnici e giocatori è stato un primo terzo di campionato senza tregua. Chi ha mostrato di avere energie da vendere è Cividale, seconda da sola e innegabilmente la sorpresa del campionato. La giornata odierna propone una sfida contro il fanalino di coda Piacenza, ultima della classe ma da non sottovalutare, formazione giovane in crescita, che 7 giorni fa ha rifilato 18 punti a Nardò. La squadra di Pillastrini ha sempre disputato incontri tiratissimi, vincendone 8 su 10, serie aperta di 6 successi, con un po' di discontinuità, ma con una prevalenza di tratti positivi rispetto a quelli negativi. Se l'agonismo è l'elemento distintivo, le ultime partite ci hanno insegnato che quasi tutti i giocatori sono in grado di dare il contributo chiave per risolvere il match. Una Gesteco non più redivo dipendente e tipica espressione del gioco di un allenatore di lungo corso come i Pillastrini. Si annuncia di alto livello il match del Carnera APU contro Forlì, squadra che ha 2 soli punti in meno dei bianconeri udinesi e che con l'innesto di Perkovic è decisamente migliorata. La formazione di Vertemati ha dimostrato grande carattere quando è stato impegnato sul parquet di casa, basti pensare agli ultimi incontri con Pesaro e Urania Milano. La qualità dei giocatori dell'APU non può essere messa in discussione e la vittoria questa sera è necessaria per rimanere a stretto contatto con il gruppone di vertice. Entrambe le partite iniziano alle 20.30. Quello odierno è l'ultimo turno infrasettimanale dell'anno. Per un paio di mesi le squadre scenderanno in campo ad un ritmo da A2 con un incontro alla settimana. Ma il campionato è ancora lungo. La stagione regolare terminerà a fine aprile. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Dalla prossima domenica MSC Crociere comparirà come sponsor sulla maglia gara della Pallacanestro Trieste in A1. Dopo l'annuncio in primavera mancava solo la presentazione ufficiale della nuova partnership, che rappresenta un passo fondamentale per il club biancorosso verso una sempre maggiore internalizzazione, si legge nella nota della società di basket. La partnership come MSC Crociere non si limiterà a un supporto economico, ma si tradurrà in una serie di iniziative congiunte volte a promuovere lo sport e i giovani talenti. 3 giornate di squalifica a testa e questa la sanzione del giudice sportivo in merito all'episodio tutto interno alla Triestina tra l'attaccante Crolis e l'allenatore Clotet. Quest'ultimo aveva atteso a bordo campo il giocatore e lo aveva strattonato, tirandogli la maglia. Entrambi salteranno le partite con Feralpi Salò, Renate e Padova. 2 giorni fa la società aveva manifestato fiducia nel tecnico e quest'ultimo, a dispetto di quanto minacciato durante la partita, aveva annunciato che Crolis sarebbe rientrato nel gruppo. Gesti di distensione che non sono bastati al giudice sportivo. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Andrei Marussic. In regia, per la parte tecnica, Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.